Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. New York, una città magica. Difficile non rimanerne affascinati, ammaliati, sedotti. Forse in nessun altro luogo del mondo si mescolano in maniera così perfetta modernità ed eleganza, kitsch e raffinatezza, alto e basso, America ed Europa. Per chi arriva a Manhattan dal JFK, il profilo dello skyline è qualcosa di assolutamente indimenticabile. Così come indimenticabili sono i profumi, i colori, i sapori delle vie e dei quartieri della city americana, la città che non dorme mai. I wanna wake up in that city that doesn't sleep. Pensate a quanti artisti e intellettuali sono stati sedotti dalla grande mela, oppure nati lì, non sono mai riusciti a prescinderne. Woody Allen, Andy Warhol, Martin Scorsese, George Gershwin. New York è una città ricca di musei straordinari, di quartieri affascinanti, di negozi e locali irresistibili e di palazzi famosi in tutto il mondo. La nostra storia di oggi parte proprio da uno di questi straordinari edifici storici che si affaccia su Central Park ed è stato costruito verso la fine del 1800. Uno di quei palazzi davanti a cui si accalcano i turisti, cacciatori di foto e di ricordi. Il palazzo è il Dakota Building, all'angolo tra la 72esima e Central Park. Un edificio bellissimo, che però l'8 dicembre 1980 vede tristemente aumentare la propria fama e la propria riconoscibilità. Quella sera, uno sconosciuto, Mark Chapman, spara 4 colpi di pistola a una delle icone pop del Novecento. Uccide un uomo, crea un mito. Quell'uomo è John Lennon. John Lennon. This is ABC News Nightline, reporting from Washington. Se avete acceso un televisore o una radio nelle ultime ore, saprete già che John Lennon, ex componente dei Beatles, è morto. È stato assassinato a tarda sera davanti l'ingresso dell'edificio dove risiedeva a New York. È morto pochi istanti dopo gli spari. L'uomo che gli ha sparato si è avvicinato al musicista mentre questi stava scendendo dalla sua limousine con la moglie e gli ha detto: «Mr. Lennon è pronto ad entrare nella storia», e poi ha sparato 5 colpi. Ci colleghiamo con New York per avere maggiori dettagli. In New York with more details is ABC's Lynn Scher. John Lennon was murdered on his way home. John Lennon è stato ucciso mentre rientrava a casa, appena fuori dal portone del famoso condominio in cui risiedeva, il Dakota Building, dove viveva con la moglie, Yoko Ono, e i figli. Al momento sembra che, appena sceso dalla limousine, non ancora arrivato al cancello, un uomo gli ha sparato dei colpi di pistola, un uomo che è stato visto fuori dal portone già dalle prime ore del pomeriggio. Il mondo dei media, come spesso accade in questi casi, è in fibrillazione. Notizie contrastanti si susseguono, si alternano. Un dato è certo, John Lennon è morto. È arrivato in ospedale già privo di vita, come conferma il dottore che gli ha prestato i primi soccorsi. Aveva diverse ferite d'arma da fuoco, al petto, al braccio, alla schiena. C'erano 7 ferite nel suo corpo. Non so esattamente quanti proiettili siano stati sparati, ma c'erano 7 ferite. C'era un grave danno ad alcune delle arterie vitali e ciò è stato la causa della sua rapida morte. Accanto a Lennon, al momento della sua morte, la seconda moglie, Yoko Ono. Uno dei rapporti più chiacchierati, tormentati, controversi della storia della cultura pop. Un incrocio di vite che ha cambiato percorsi e destini di due esseri umani ben oltre il semplice legame sentimentale. Due esseri umani che sembrano avere impresso nel loro DNA, come un codice già scritto, il loro incontro e il loro destino. Cerchiamo di capirne di più. Scopriamo prima qualcosa sul grande John Lennon. Per farlo, voliamo in Inghilterra. Ci troviamo a Liverpool. Quelle che sentite sono le bombe dell'aviazione tedesca, la temibilissima Luftwaffe. È iniziata la campagna d'Inghilterra. Hitler dà inizio al bombardamento delle città inglesi. E il 9 ottobre del 1940 ci troviamo nella casa di Alfred Lennon, un marinaio inglese. Alfred non c'è, si trova in mare. C'è la moglie però, Julia Stanley, che proprio sotto le bombe dà alla luce il piccolo John. John, che diventerà un'icona del pacifismo, nasce quindi con i segni della guerra addosso. Nasce sotto i bombardamenti. La mamma gli mette come secondo nome Winston, in onore di Churchill, che sta guidando gli inglesi nella battaglia d'Inghilterra contro la Germania nazista. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. L'infanzia non facile di Lennon è cosa nota. Il distacco dalla madre avviene a soli 5 anni, quando viene di fatto adottato dagli zii, preoccupati dall'inaffidabilità di mamma Giulia, che ha messo al mondo da poco un'altra bambina in seguito a una scappatella con un soldato gallese. Seguono continui trasferimenti dalla casa degli zii a quella della madre, fino a 17 anni, quando una tragedia spezza qualcosa dentro di lui, lasciando scorrere un rivolo inarrestabile di malinconia. La madre muore in un incidente stradale. Ho perso mia madre 2 volte. Una volta da bambino, a 5 anni. E poi ancora a 17. Mi ha dato molta, molta amarezza. Amarezza interiore. Avevo appena iniziato a ristabilire una relazione con lei, quando fu uccisa. Come spesso accade nella vita, questi momenti di perdita e di elaborazione del lutto determinano anche una profonda esplorazione della propria interiorità, che ha come conseguenza scoperte importanti su se stessi, sui propri limiti, sui propri talenti. Così John, quando perde anche l'amato zio George, rimanendo solo con zia Mimi, inizia a misurare il proprio straordinario talento artistico. Prima nel disegno e nella pittura, poi nella musica. Iscrittosi al Liverpool College of Art, Lennon scopre la chitarra e fonda a 18 anni la sua prima band, i Quarrymen. Una frase di zia Mimi è passata alla storia. Vedendo il nipote sempre alle prese con la sua chitarra, gli disse: «La chitarra va bene, John, ma non ti darà certo di che vivere». Siccome gli incontri e gli incroci del destino sono una costante della vita di John Lennon, è per caso ad un concerto dei Quarrymen che John incontra una persona fondamentale per il suo futuro e per la storia della musica. È il 6 luglio del 1957. Siamo a Woolton, piccolo sobborgo di Liverpool. Durante la festa parrocchiale si stanno esibendo i Quarrymen. Ivan Vaughan, uno dei componenti del gruppo, presenta a John Lennon un suo amico, un ragazzetto più piccolo di 2 anni, un tale Paul McCartney. Si dice che McCartney, durante una pausa del concerto, si sia avvicinato a Lennon, che era ubriaco perso, per accordargli meglio la chitarra, per offrirsi come cantante di 20 Flight Rock e per scrivergli le parole esatte del testo di Biba Palula, viste le condizioni di un John che se le sarebbe inventate di sana pianta. Lennon rimane impressionato dalla personalità e dal talento di McCartney. Si stringono la mano e la storia della musica cambia per sempre. Paul ha molte cose in comune con Lennon. La passione per la musica, la chitarra, l'estro, in parte anche il timbro vocale. Inoltre, anche McCartney ha perso la madre qualche anno prima. Hanno anche la stessa cognizione del dolore. McCartney entra nei Quarrymen e di fatto nascono i Beatles. La casa di zia Mimi al 251 di Menlo Avenue, ribattezzata Mendips, diventa il quartier generale del primo nucleo del gruppo di Liverpool. In questi anni i Quarrymen fanno una lunga gavetta. Cambiano spesso formazione, fanno esperienza in Germania, trovandosi a sostituire per puro caso un'altra band di Liverpool. All'inizio molto modesta sul piano tecnico, la band acquista fiducia e sicurezza. Mentre George Harrison e Ringo Starr entrano nella band alla spicciolata, andando a completare la line-up solo nel 1962, è nel 1960 che arriva il nome Beatles, Scarafaggi. viene trovato da McCartney e Lennon come omaggio a un gruppo che adoravano, The Crickets, i grilli di Buddy Holly. Nel 1962, quindi, c'è il nome e ci sono tutti loro, i Fab Four. Entrano in studio di registrazione. La gavetta è finita. È tempo di sperimentare con il primo singolo. Viene registrato alla fine di agosto del 1962. Il loro manager Brian Epstein è riuscito a far ottenere loro un contratto non troppo vantaggioso con la EMI. Ma è sempre un contratto ed Epstein è pronto a tutto. Quando il singolo viene pubblicato, addirittura acquista a proprie spese migliaia di copie nei primi giorni. Vuole creare attenzione attorno ai quattro. Ci riesce. Il singolo è Love Me Do. Nella casa di zia Mimi, insieme a Paul McCartney, Lennon scrive le prime grandi canzoni del gruppo. Progressivamente in tutto il mondo nasce il fenomeno Beatles. Straordinarie sono le performance live dei Fab Four, che vedono sempre migliaia di fan entusiasti a correre per acclamarli. Can't Buy Me Love è il titolo di questa canzone. Non puoi comprare il mio amore. Il testo viene scritto da McCartney e Lennon. Col denaro non posso comprarmi l'amore. Sono stati versati fiumi d'inchiostro per spiegare il senso dei brani dei Beatles. Questo però sembra rivelare un dato. Al di là del successo, dei trionfi, della folla e della fama, Lennon ha sempre manifestato un disperato bisogno d'amore. L'ha sempre cercato, l'ha sempre inseguito. L'amore vero, assoluto, puro, lontano da tutto ciò che di materiale può esserci al mondo. Ho sempre pensato che l'amore sia la forza più grande che ci possa essere. Ho sempre avuto un disperato bisogno di essere amato. Può essere che dipenda dalla difficile situazione con mia madre. Fatto sta che ho sempre pensato che essere innamorati possa essere la cosa più importante che ci sia nella vita. Nel periodo dei primi Beatles, Lennon ha una fidanzata storica, si chiama Cynthia Powell. Si conoscono dal 1957. Nel 1962 lei scopre di essere incinta e i due si sposano. Il manager Brian Epstein, che gestisce scrupolosamente l'immagine della band di Liverpool sotto tutti i punti di vista, ritiene che un Beatle sposato possa essere sgradito al pubblico femminile e insiste con John perché il matrimonio rimanga segreto. Intanto John Charles Julian Lennon nasce nel Sefton General Hospital l'8 aprile del 1963. Lennon è in tournée. Al ritorno vede il figlio per soli 3 giorni. Poi parte per la Spagna per una breve vacanza proprio con Epstein. Una vacanza che alimenta fiumi di pettegolezzi. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. In ogni caso, tra John e suo figlio Julian ci fu sempre una certa freddezza e distanza, tanto che Julian si affezionò molto di più a Paul McCartney che al padre. McCartney dedicò a Julian la malinconica Hey Jude, una delle canzoni più famose dei Beatles. Lo stesso Julian Lennon più tardi dirà la sua sul rapporto col padre. Paul e io eravamo spesso insieme. Eravamo molto amici e ho più foto in cui giocavo con lui che con mio padre da bambino. Diciamo che come padre John non è stato esattamente presente. Mentre i successi dei Beatles arrivano uno dopo l'altro, la vita personale di Lennon sembra sempre più indecifrabile. Inquieto, mai soddisfatto, Lennon sembra vagare senza meta. La storia dei trionfi dei Beatles è nota. A noi di Destini Incrociati ne interessa un'altra, quella che inizia il 9 novembre 1966 a Londra in una galleria d'arte. Nella zona di St. James, nel cuore di Londra, Mason Yard, c'è un luogo di culto per la controcultura anglo-americana, un simbolo delle neo-avanguardie della contestazione giovanile degli anni 60, la Indica Gallery. Gotta go. La storia della musica, dei grandi gruppi rock in particolare, presenta spesso una figura ricorrente. Una donna che entra nella vita della band e la conduce inevitabilmente alla distruzione attraverso il turbolento e controverso rapporto con uno dei musicisti. Pensate a Nancy Spungen, al suo rapporto con Sid Vicious, alla fine ingloriosa dei Sex Pistols e dello stesso bassista della band inglese. Oppure pensate a Courtney Love, moglie del leader dei Nirvana Kurt Cobain, morto suicida l'8 aprile del 1994 in una serra sul lago Washington. Il caso più clamoroso, più celebre, più controverso comunque è quello di John Lennon e Yoko Ono. Un incrocio di destini sconvolgente che cambia prospettive e traiettorie determinanti per la controcultura giovanile, per la storia della musica, per il movimento hippie. Meravigliosa artista e sublime provocatrice per alcuni, Yoko è vista da altri come una dark lady senza scrupoli e affamata di notorietà, che come un parassita ha usato Lennon per raggiungere i propri scopi. In ogni caso una domanda suona legittima. Cosa sarebbe successo se in quel 1966 John e Yoko non si fossero mai incontrati? Le vite di Lennon e Yoko Ono hanno in sé uno strano magnetismo che sembra spingerle l'una verso l'altra, come se ci fosse qualche traccia nascosta, qualche segno di predestinazione che possa rivelare un piano già scritto, un destino segnato. Yoko Ono ha 7 anni più di Lennon. È nata nel 1933 a Tokyo. John l'ha definita la più famosa artista sconosciuta del mondo. Una frase che fotografa bene una caratteristica di Yoko, sottolineata da molti. Se provate a chiedere in giro ad amici e conoscenti, la conoscono praticamente tutti, in tutto il mondo. Ma nessuno sa rispondere con precisione a una domanda. Al di là del rapporto con Lennon, cosa fa Yoko Ono? Chi è? John Lennon ricorda così il loro primo incontro. Quando visitai per la prima volta una sua mostra, fui suggestionato dall'ironia delle sue opere. Di solito mi annoiavano quel tipo di installazioni d'avanguardia, invece lì qualcosa mi aveva catturato. Ad esempio l'installazione che prevedeva una scala davanti ad una tela nera e che per mezzo di specchietti faceva leggere la parola yes. E poi soprattutto una mela vera, esposta con la targhetta mela. Le chiesi per curiosità il prezzo della mela. Mi rispose 200 sterline. Lo trovai divertente. Un artista, quindi. Pittrice, scultrice e musicista. Anche Yoko Ono, poi, come Lennon, sembra avere scolpito nella sua vita, fin dall'infanzia, un senso di inquietudine che la caratterizzerà per sempre. Quell'inquietudine che la spingerà proprio verso Lennon e che si stempererà soltanto nei non così frequenti momenti felici trascorsi con il musicista inglese. La sua famiglia giapponese appartiene alla borghesia di Tokyo e le permette di frequentare le migliori scuole della capitale nipponica. Anche per lei l'esperienza della guerra e dei bombardamenti è determinante. Ha poco più di 10 anni Yoko quando vive il dramma dei bombardamenti. Per sfuggire alla guerra con il fratello, si trasferisce in campagna. Qui vive la povertà, la fame, gli stenti, cose fino ad allora lontanissime. Impara a conoscere la sofferenza. Il suo carattere forte si forma e si forgia. Come se non bastasse, il padre viene rinchiuso in un campo di prigionia in Cina e subisce il dramma della tortura. Anche per lei, come per Lennon, le future posizioni pacifiste, le future provocazioni, hanno una radice autobiografica forte che in qualche modo li unisce e li rende simili. Il dramma della guerra vissuto sulla propria pelle durante l'infanzia. Qualcosa che ti segna per sempre. Dopo la guerra, per reazione, Yoko sente il bisogno di evadere, di fuggire. Si trasferisce negli States, a New York. Vuole assaporarne la libertà, vivere il profumo della grande mela. Si circonda di artisti e musicisti. L'America sembra la sua terra promessa. Anche la sua vita sentimentale appare turbolenta e irrequieta. Nel 1956 sposa il compositore Toshiki Yanagi, dal quale divorzia nel 1962. Il 28 novembre dello stesso anno si risposa con l'americano Anthony Cox, musicista jazz, produttore cinematografico e promotore artistico. Il loro matrimonio viene annullato il 1 marzo 1963. Si risposano il 6 giugno, per divorziare nuovamente il 2 febbraio 1969. Il frutto più amaro di questo secondo matrimonio è legato alla figlia che Yoko e Anthony concepiscono, Kyoko Chan Cox. Nasce l'8 agosto del 1963, ma dopo il divorzio definitivo e una battaglia legale che vede la custodia della bambina assegnata in maniera permanente a Yoko nel 1971, Cox rapisce Kyoko e scompare. Yoko non rivedrà sua figlia fino al 1998. È stata una delle esperienze più brutte della mia vita. Come se per anni io avessi dovuto fare a meno di un pezzo di me. Il distacco da un figlio è la cosa più terribile che ti possa capitare. Non lo auguri a nessuno. Nella frenetica vita artistica newyorkese, Yoko si inserisce alla perfezione e, lavorando gomito a gomito con le avanguardie, capisce subito il senso e l'importanza dell'arte concettuale. Non a caso, è tra i primi artisti e intellettuali ad aderire a Fluxus, il movimento neodadaista fondato da George Machunas, che ha radicalmente innovato il concetto di arti visive negli anni 60. Yoko contribuisce al movimento con una performance passata alla storia, Cat Piece, che lei stessa ricorda molto bene. Cat Piece era una performance molto semplice, molto provocatoria. Io stavo semplicemente seduta su un palco e sollecitavo il pubblico a tagliare con delle forbici i vestiti che avevo addosso fino a restare completamente nuda. Oltre a queste performance d'arte concettuale che dividono nettamente la critica tra feroci detrattori e appassionati sostenitori, Yoko Ono dirige in questo periodo anche alcuni film sperimentali, 16 in tutto. Il più noto è Bottoms, film che ritrae per tutta la sua durata natiche umane posizionate in uno schermo suddiviso in quattro parti quasi uguali per mezzo della fessura e della piega orizzontale dei glutei. Un'altra provocazione, destinata a lasciare il segno, se pensiamo che oltre 20 anni dopo la Swatch dedicherà a Bottoms un orologio commemorativo. Quando Yoko Ono e John Lennon si incontrano, hanno entrambi alle spalle la forza del proprio genio e del proprio estro. Lennon, in quella mattina di novembre del 1966, quando Yoko Ono espone le sue opere all'Indica Gallery di Londra, viene suggestionato dall'ironia delle opere esposte. Rimangono subito in contatto, ma iniziano a uscire solo 2 anni dopo, nel fatidico 1968. Si sposano il 20 marzo 1969, dopo il divorzio di Lennon dalla moglie Cynthia. La vita di entrambi cambia. La presenza di Yoko nella vita di John diventa un problema per i Beatles. Troppo ingombrante, si dice, troppo invadente. Vuole dire la sua sugli album e sui brani dei Fab Four, che sentono violata la sacralità di quella che era stata una felice famiglia artistica. Se già c'erano delle crepe tra Lennon e McCartney, queste diventano voragini. E il gruppo frana, come racconta lo stesso Lennon. So che a Paul Yoko non è mai andata genio, ma non mi interessa. Ho fatto la mia scelta, sono cose che non mi toccano più. La verità è che fra noi ci sono da tempo problemi di altro genere, divergenze artistiche. Questa è la verità. Yoko non c'entra nulla. Yoko però acquista quella fama che come artista non aveva mai raggiunto. Come signora Lennon, le sue opere e la sua musica ottengono migliore circolazione e maggiore attenzione. Lei è bravissima a sfruttare questo nuovo risalto mediatico. Insieme, i due riescono a imprigionare lo sguardo dei media. Dai bed-in di protesta per la pace nel mondo ad altre straordinarie provocazioni sulle droghe e sulla libertà dei giovani, Yoko e John diventano icone per un'intera generazione di ragazzi. Sono un simbolo di ribellione e di pacifismo. Tra separazioni, ritorni di fiamma, fughe e ricongiungimenti, quella che ormai è la coppia più famosa del mondo entra negli anni Ottanta. Nonostante l'aperta ostilità del governo degli Stati Uniti, che solleverà negli anni crescenti sospetti e illazioni di complotto, Lennon decide di trasferirsi a New York e di trasformare la Grande Mela nel centro del suo mondo. I'm Destini incrociati. È una fredda sera newyorkese. La conclusione di una di quelle giornate frenetiche, elettriche, della grande mela sotto il Natale. Tra Times Square e la Fifth Avenue, newyorkesi e turisti si sono accalcati per le compere natalizie. Le luci delle festività imminenti iniziano a spegnersi nel freddo dell'inverno. In questo clima, in questo scenario, John Lennon sta facendo ritorno a casa. Ha trascorso una giornata di lavoro in studio di registrazione. Accanto a lui, la moglie, Yoko Ono. La limousine su cui viaggiano arriva a destinazione, davanti al Dakota Building, la loro residenza. Sono le 22:50. Yoko scende per prima dall'auto. John subito dopo. Dall'oscurità arriva una voce. Ehi, John! Lennon ha appena il tempo di riconoscerla. È lo stesso individuo che poche ore prima, sempre sotto casa, gli ha chiesto un autografo. È ancora lì. Gli si rivolge un'altra volta. Ehi, John, vuoi entrare nella storia? Non fa in tempo a realizzare il senso della domanda, Lennon. Un suono, un colpo, un altro. Il dolore, il sangue, il buio. Un buio che Yoko Ono non può dimenticare. Ancora oggi, a distanza di 30 anni, John mi manca. Per me è terribile ripensare a quella sera, a quel dolore straziante, a quella stretta al cuore, al vuoto terribile dei giorni successivi. Ci ho messo un po' a venirne fuori. Forse non ho mai superato del tutto quel trauma. La notizia della morte di Lennon fa il giro del mondo. Raggiunge anche gli ex compagni. McCartney, a Londra, viene raggiunto da un giornalista americano. Ha sentito della morte di John Lennon? Sì, ho sentito, questa mattina. Cosa ne pensa? Beh, penso sia una cosa spaventosa. Ma credo di non rendermi ancora bene conto di quello che è successo. Vi chiedo scusa, preferisco non parlarne. Vi chiedo scusa. È la fine di un sogno. È l'inizio di un mito. Da più parti si parla di complotto. Gli Stati Uniti non apprezzavano Lennon. Lo vedevano come un sovversivo, un cospiratore, forse addirittura un terrorista. I ben pensanti, la Chiesa, i moralisti, lo vedevano come un bersaglio preferenziale. Mark David Chapman, uno squilibrato che risiedeva alle Hawaii, lo vedeva come la via d'uscita della propria depressione. Compie il gesto estremo e separa per sempre John da Yoko. Il pacifismo, l'eroina, le provocazioni, le sperimentazioni, i bed-in, le proteste sono probabilmente il frutto controverso, indefinibile del rapporto tra John e Yoko, dell'incontro tra due personalità forti e inafferrabili. Forse anche la fine dei Beatles è in qualche modo riconducibile al loro rapporto. So che per Paul McCartney io sono in qualche modo la causa della fine della band. Pensa che il mio rapporto con John lo abbia in qualche modo cambiato. È naturalmente libero di pensare ciò che crede, ma la verità non è questa. Tuttavia, la loro unione, il loro controverso rapporto, è uno di quegli incroci in cui vita e arte si annodano, si saldano, cambiano la storia della cultura contemporanea, come riconosce il figlio Julian. Io credo che quello che hanno fatto negli anni 70, i dischi, quelle provocazioni, siano stati fondamentali per la cultura giovanile di quegli anni. Milioni di giovani in tutto il mondo sono figli di quel modo di pensare che, per fortuna, non è morto con mio padre. Non è morto in quegli anni. Dopo la morte di Lennon, Yoko vive un paio d'anni di riflessione. Poi riprende con la sua musica. Tra dischi e musical, la sua attività non è mai cessata, sino ad oggi. Yoko ha ripreso i contatti con McCartney in un rapporto che rimane comunque ricco di spigoli. Uno dei punti principali della loro lunga disputa è l'attribuzione di molte delle canzoni dei Beatles. Fintanto che i Beatles rimasero insieme, tutte le canzoni scritte da Lennon o da McCartney erano bollate con la dicitura autoriale Lennon-McCartney. Dopo la morte di Lennon, Paul tenta di cambiare l'ordine in McCartney-Lennon per alcuni pezzi, ma Yoko non glielo permette. Nonostante le differenze, nel 1995 McCartney e la sua famiglia collaborano con Ono e Sean Lennon per scrivere la canzone Hiroshima Sky is Always Blue, che commemora il 50° dallo scoppio della bomba atomica sulla città giapponese. Di Ono, McCartney dice: «Pensavo fosse una donna fredda. È il contrario. Penso sia solo più determinata delle altre persone ad essere se stessa». John una volta si era sentito insicuro circa la qualità dei testi da lui composti e mi chiese perché gli altri autori fanno sempre cover delle canzoni di Paul e mai delle mie. Io gli risposi: sei un buon autore. Non scrivi cose come June with Spoon. Sei un buon cantante. E la maggior parte dei musicisti sono probabilmente a disagio facendo cover delle tue canzoni. La ONU ha poi affermato che non intendeva offendere o attaccare Paul e continua a sostenere che rispetta McCartney e che la stampa tende faziosamente a decontestualizzare le sue parole. Fatto sta che anche i pezzi di John Lennon continuano a essere coverizzati, soprattutto i più famosi tra quelli scritti nel periodo post-Beatles, quelli che portano il marchio indelebile di Yoko Ono impresso nelle melodie. Al di là di tante chiacchiere, dei discorsi, delle illazioni, è musica che vivrà per sempre, come per sempre vivrà, per fortuna, il cuore pulsante del messaggio pacifista di John Lennon. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.